quasi un dì. Ah. Puoi non essere la metà. Questa vita ci ha crediti, oh, potessi essere un uomo, neanche metà io lo sarei. Bene, questa è la città. Io lì dentro mi specchierei. Cosa poi ci devo è la vostra frustrazione, è la mia capacità. Nuvole, guai è già, la mia età è tutta qua. Potessi essere un uomo, neanche metà io lo sarei. Solo tu senti là quanta gente urlerà, la mia morte, la clessidra non mi aspetta più. Piove la nave di Delo, prima o poi se ne andrà. Non aspettate il mio ritorno, tanto il seme vostro avrà le sue capacità. La sarei un uomo, neanche metà, io lo sarei.